per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua. Musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Parte in questo ultimo venerdì di ottobre con Chi fa da sé fa per te, e qui all'interno della forma dell'acqua andiamo a raccontare storie di quotidiana sopravvivenza, ma oggi però saranno più che altro storie di quotidiana sopraffazione, un po' come quelle raccontate anche all'interno della prima produzione operistica dell'associazione Senza Spine. Allora non mi dilungo oltre, andiamo subito a presentare i nostri cari ospiti che sono qui oggi con me: Matteo Parmegiani e Ulduz Ashraf Gandomi. Buongiorno. Buongiorno a te. Già che sono riuscita a dire entrambi i vostri nomi correttamente, io mi darei un premio. Ma insomma, andiamo avanti, perché questa puntata, devo dire, mi emoziona particolarmente, perché tra le tante cose un po' bizzarre che mi contraddistinguono esiste un legame speciale con la musica classica. In particolare un aneddoto che è un po' particolare, ma ve lo racconterò più avanti perché non voglio così scioccarvi fin da subito per farvi cambiare le frequenze. Ma io, Matteo, partirei proprio da te, e devi sapere che all'interno di Chi fa da sé fa per te gli ospiti portano alcuni brani per raccontarsi, quindi fanno un po' la playlist. Però tu, essendo un maestro d'orchestra, adesso mi metti un po' in ansia, perché insomma avere una playlist da te mi mette un po' in soggezione, devo dirlo. Addirittura. E invece tu, Matteo, hai un aneddoto particolare che vuoi raccontarci per farci capire come ti sei avvicinato alla musica classica? Ma io mi sono avvicinato alla musica classica perché il testimone di nozze di mio padre, che è un dentista, mi ha regalato quando ero bambino una tastiera bruttissima, che adesso se mi sente, ciao Gigi, una tastiera di plastica. Ho iniziato a spingere delle note, mi piaceva così sentire le note del pianoforte, e quindi mi sono appassionato in questa maniera alla tastiera, uno strumento, e da lì poi la strada è stata quella delle scuole medie musicali e tutto un percorso che in realtà poi non hanno, è tutta, diciamo, farina del mio sacco, perché in famiglia, a parte la nonna che ascolta la musica classica come tutte le nonne, non ho nessun tipo di influenza in quel senso. Quindi non sei figlio d'arte, ma figlio di nonna. Esatto, sono figlio di nonna, e questo mi ha dato la possibilità di ascoltare tanta musica, e poi piano piano ho deciso di intraprendere questa strada un po' strana. Un po' strana, però devo dire tanto di cappello, perché dovete sapere che non è solo il maestro d'orchestra, ma anche il vicepresidente dei Senza Spine, che hanno un obiettivo molto grande, cioè quello di avvicinare il grande pubblico alla musica classica. Ovviamente abbiamo insieme a te altri 300 under 35 che insieme a te ogni giorno lottano per portare avanti questo obiettivo. Sì, diciamo che io lotto con loro per tenerli tranquilli, e loro lottano assieme a me per fare di questa meravigliosa passione un lavoro, non un lavoro che sia abitudinario, che sia consuetudine, ma un lavoro che porti arte e bellezza nella vita delle persone che in maniera magari un po' così frastornate da una vita quotidiana che ti porta ad avere dei momenti di svago dal lavoro, molto a flash, senza che non ti dà mai la possibilità di ragionare, di gustare quello che stai facendo, di una pausa vera. E invece quello che noi stiamo cercando di fare è di stimolare queste persone a prendersi un momento per se stessi e di approfondire la conoscenza di un'arte, dell'arte in generale, perché noi, va bene, siamo un'orchestra di musica classica, ma poi collaboriamo con tante altre arti, e E quindi appunto cerchiamo di fare in modo che questo svago non sia uno svago passivo come possono essere tanti svaghi quotidiani che uno ha in questo mondo, diciamo, moderno, ma che sia uno svago che ti dia la possibilità di crescere, di approfondire anche il rapporto con te stesso. Quindi un po' questa è l'obiettivo. Una grandissima aspirazione, e devo dire che ci state riuscendo molto bene, ma adesso approfondiremo perché non siete da soli, avendo anche un progetto all'interno di un quartiere, ma andiamo per gradi. Sì, non possiamo svelare tutto subito. Esatto, e siccome appunto voi riuscite davvero ad avvicinare soprattutto anche i giovani alla musica classica, c'è anche chi ha provato, partendo dalla musica classica, a creare qualcosa di più pop, come per esempio il brano che stiamo per ascoltare, e Io ti adoro di Luciano Pavarotti, poi magari la commentiamo insieme. Che bella voce Pavarotti che c'ha. Cantare per te. Io ti adoro, a me piace tutto di te. Se ci sei, vorrei tu fossi qui, e quando te ne vai, sei ancora qui con me, perché sei bella da morire, e nulla al mondo mai ci dividerà. Sei l'aurora, sei l'arcobaleno per me, e pur di avere chi, io ti inventerei. Quando tu ritornerai, sentire quella gioia come un bimbo che oggi a scuola non andrà. Ed una vita no, a stare non mi può, per dirti tutto ciò che vibra nel mio cuore. Ai tre minuti di questa rietta ti convincerò. Partire, nella gioia di tornare, nell'istinto primordiale di riuscire ad amare. Oh, oh, oh. E mandiamo in frequenza un po' di musica classica, non perché colta, ma perché venga colta senza spine. Vi piace questa? Bellissima. E siamo qui appunto con Matteo e Ulduz per parlare un po' del progetto dell'Associazione Senza Spine. Ho voluto farvi ascoltare questo brano che tra l'altro è stato anche rifatto con DJ Francesco, però ve l'ho risparmiata quella versione. Agghiacciante, direbbe qualcuno, agghiacciante. Esatto, e questo perché in tanti modi hanno cercato e hanno provato di avvicinare il grande pubblico alla musica classica. Quindi qual è la vostra opinione? È meglio trovare un modo più fruibile per avvicinarsi a quello che è veramente la musica classica, o ha un riscontro modificare un brano per renderlo fruibile? Allora, diciamo che oggi il mondo della lirica e il mondo della sinfonica ha bisogno di un'iniezione di entusiasmo e, dal pubblico, che lo sente, come dire, sente la musica classica come un luogo lontano, mentre invece è il nostro patrimonio culturale, racconta di noi, racconta delle nostre pulsioni, racconta del nostro essere italiani, perché dentro all'opera troviamo tutto. Quasi più apprezzata all'estero, serve. Fa un po' che nel nostro paese. Assolutamente sì, cioè la musica ha dei luoghi che ci raccontano, raccontano delle nostre necessità interiori, spirituali, comunicative che altri linguaggi, altre forme d'arte non raggiungono. Ecco, nell'opera in particolare confluiscono talmente tante altre arti, e è una sinergia, un incontro tra più mondi. Quindi per me in particolare l'opera italiana in particolare è stato un incontro casuale. Ho trovato anche tu un aneddoto, lo so. Sì, un VHS di Carmen, una vecchissima versione con Agnes Balsa e Carreras, e quando lo vidi piansi. Anzi, ma non mi era mai successa un'emozione del genere, mai, perché tutti conosciamo, no, i temi di Carmen, no? Sai, cellulare, Toreador, cioè, però è interpretata da lei, guardarla sul palco, no? E vissuta con questo trasporto e questi artisti, è stata un'emozione grandissima. Avevo già visto un'opera lirica, I Masnadieri, in un teatro che non posso nominare, ma fu tutt'altro tipo di approccio. Evidentemente la musica trasmessa da degli interpreti con quel tipo di energia e con un allestimento di quel genere ha avuto in me un effetto travolgente, che è l'effetto che vorremmo raggiungere con il nostro Elisir d'amore, perché effettivamente in Elisir ci saranno molte sorprese, sarà uno spettacolo particolarmente travolgente, pop, un po' come, diciamo, vuole essere anche, no, l'approccio di Senza Spine. Quindi un avvicinarsi a quello che è il vostro primo progetto in questo senso, quindi vogliamo dirlo, lo possiamo dire, diamo già delle date. Dobbiamo dirlo per forza, questo Elisir d'amore al Teatro Duse e al Teatro Nuovo di Ferrara. Al Teatro Duse il 7 e l'8 di novembre alle ore 21, una bella doppietta, e io consiglio a tutti di venire tutte e due le volte, perché la prima volta si colgono alcuni aspetti e la seconda altri. È un po' come, no, quando si legge un libro, ogni volta che lo si legge almeno due volte, almeno due volte. Se poi vogliono venire tutti anche a Ferrara il 10 di novembre, tanto meglio. Assolutamente, poi dobbiamo dire che il nostro cast sarà incredibile e chiaramente ogni interprete avrà il personaggio adeguato alle sue caratteristiche, quindi saranno, sì, la regia sarà quella, ma le sfumature saranno diverse, perché sono adattate ai cantanti che avremo. Il cast si differenzia nelle due serate. E quindi vogliamo, come dicevamo prima, emozioni diverse in base agli interpreti, quindi non potete perdervi. Diciamoli, ragazzi, diciamoli, che cantano, visto che sono bravissimi: Erika Tanaka, Anna Roberta Sorbo nel ruolo di Adina, Giannetta alternate, poi due Nemorini, Chen Dashuai e Wu Huang, poi il Dulcamara formidabile Maurizio Leoni, e Belcore Abram Garcia Gonzalez, che ci interpreterà Belcore, e più tutta un apparato di oltre alla regia di Ulduse, che qui è la mia direzione, ma poco importa. Vogliamo anche salutare tutti gli altri amici: Dario Marcolin Gallerani per le scene, i costumi di Greta, curati da Greta Naselli, Maria Camilla Corticelli, e luci di Andrea Generali, e maestro del coro Mariena Mazzella, perché diciamo che collaboriamo con una bravissima corale di Ferrara che si chiama Corale Veneziani, più tutta una serie infinita di persone che dobbiamo ringraziare per questo Elisir d'amore. E sicuramente anche persone che ancora in realtà non conoscete, perché io so che avendo voi la collaborazione all'interno del mercato sonato, parte della parte scenica verrà prodotta proprio con le loro manine, quindi ancora in realtà è un work in progress. Sì, diciamo che i laboratori sono partiti, quindi qualcuno è già venuto, qualcuno vedremo prossimamente sentite chi verrà. Il prossimo giovedì è il prossimo appuntamento, mi risulta. Quindi poi daremo tutte le informazioni, le date per poter coinvolgere al massimo. Assolutamente. Allora io darei un attimo di stacco con il prossimo brano, Danza delle ore di Ponchielli, scelto che da... bella! Da... Io? Ah, io l'ho scelta io, ah, sì. L'ho scelta da... Attenzione, qui si soffrono gli altarini. Stiamo sì, le persone. Beh, è troppo bella la danza delle ore, meravigliosa. Beh, allora intanto godiamocela, noi ci prendiamo uno stacco, a fra poco. E sulla danza delle ore rientriamo qui sui 103.1 nell'ora della forma dell'acqua e siamo qui insieme a Matteo e a Ulduz per raccontare la loro prima produzione operistica. Allora, abbiamo detto che ci sono intanto degli inserimenti da parte del pubblico, quindi è un'opera partecipata e esatto. Tutto ciò ovviamente per te, Ulduz, sarà difficile coordinare la regia non sapendo ancora come sarà poi la scena sul ma palco. In realtà il progetto c'è, gran parte dell'allestimento è, diciamo, è completo, quasi completo, mancano alcuni dettagli, stiamo cercando di ultimare le ultime fasi e diciamo che sarà determinante questo giovedì per concludere il tutto. Ma vogliamo dare così una data? Avete magari già un'idea di quando potrà essere l'ultima data al Mercato Sonato dove tutti potranno partecipare, soprattutto per chi è appassionato al fai da te, visto che siamo a chi fa da sé, fa per te, se fa per te può fare anche per i senza spine, perché potrete andare al Mercato Sonato, ci sarà la possibilità di creare quindi parti sceniche con quindi punta arrotondata, abbondante colla vinilica. Allora io quello che propongo ai nostri ascoltatori è sintonizzarvi sulla pagina di Facebook di Senza Spine e seguire passo passo gli eventi, perché in verità allungheremo i laboratori, cercheremo di coinvolgere il più possibile, quindi chi fosse interessato già da domani a contattarci per sapere i prossimi eventi, o meglio i prossimi laboratori, gli orari. Noi faremo full time, devo dire, per ultimare gli ultimi passaggi delle scene. E poi ricordiamo che lo spettacolo si terrà sia il 7 che l'8 novembre al Teatro Duse, quindi il tempo è ormai è domani praticamente poco. A livello di produzione è domani, lo spettacolo è pronto, ora ci saranno le prove d'orchestra e sarà veramente molto emozionante, perché è la nostra prima opera. E poi è un elisir, quindi in qualche modo vi sconvolgerà anche a livello un travolgente, po' così emotivo. miracoloso. Ci drogherà. Esatto, ci vogliamo drogherà, dare esatto, sarà una droga per tutto il pubblico. Per i non addetti alla musica classica, vogliamo così spiegare di che cosa parla l'Elisir d'amore? Allora, l'Elisir d'amore parla di un amore non corrisposto, che è l'amore di Nemorino per Adina. Ora, questa è la storia di due giovani della ricerca della loro consapevolezza, perché di fatto Adina in qualche modo attraversa diverse fasi, si dà al divertimento, dice a Nemorino che la cosa migliore è passare da una relazione all'altra e non legarsi a nessuno, e non rendendosi conto di un sentimento che si fa strada durante l'opera. E Nemorino appunto seguirà il fascino per il potere, per comprare l'elisir si farà soldato, quindi abbiamo diciamo due grandi pulsioni che muovono l'azione, avremo appunto il fascino per il potere e la ricerca del divertimento, che sarà appunto una forza travolgente anche per il coro, che è omnipresente, lo troviamo, è un'opera estremamente corale Elisir, quindi vediamo che il coro, questa umanità esuberante e a tratti cinica nel mio, diciamo, nella mia visione dell'opera, è un coro che cerca un momento di relax, di divertimento all'interno di un parco cittadino, e questa ricerca in qualche modo va a sovrapporsi con le esigenze degli altri cittadini, quindi vedremo questa storia di quotidiana sopraffazione, come l'ho dicevamo voluta, appunto all'inizio, esatto, l'ho voluta chiamare in questo modo perché sono piccoli contrasti, conflitti nella gestione degli spazi, che è un tema che è molto caro credo a tutti, perché chi ha che non va in un parco un sabato pomeriggio, ecco, l'azione si svolge all'interno di un'intera giornata, dalle 5 del mattino di sabato fino alle 5 del mattino di una domenica, di un soleggiato weekend. Ecco, vediamo che sostanzialmente tutti, quando andiamo in un parco, ci troviamo sempre a dover spartire lo spazio con persone che hanno altre esigenze, no? È un po' il tema che attraversa l'opera. Il coro si troverà unito in due situazioni, grazie al magico elisir, il miracoloso elisir. Magico elisir, appunto. Allora, visto che ci siamo avvicinati ormai alla fine della prima mezz'ora, io andrei a chiudere con un brano di due artisti che sono diventati davvero famosissimi, e abbiamo un insieme di musica classica e musica moderna. Abbiamo Luca Sulik e Stefan Huser, e sono i Two Cellos, e ascoltiamoci Thunderstruck. A tra poco. Thank you. Thank you.